9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, buon 21 novembre 2012, oggi è la presentazione della Vergine, quindi francamente non facciamo gli auguri, per un giorno saltiamo gli onomastici e per un giorno anche le pillole oggi non le faccio perché abbiamo un ospite, un tema particolare per il quale oggi saltiamo il nostro rito di sparare qualcuno dei temi con qualche giudizio al volo di quelli che sono in prima pagina sui giornali. Perché tanto vale innovare e andare immediatamente al nostro ospite, al tema. Il tema qual è? È quello sul quale giustamente secondo me moltissimi quotidiani oggi, i più tra loro, aprono con la notizia, che ne so, prima pagina della Stampa di Torino, il 20% a rischio evasione, la simulazione dell'Agenzia delle Entrate su un nuovo strumento, 1 milione di famiglie dichiara zero eppure spende. Di che si tratta? Via il Redditest, questa simulazione che consente alle famiglie di scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate un modello attraverso il quale verificare la congruità tra i propri redditi dichiarati e la propria situazione reale di entrate e di spese. Perché? Perché da gennaio entra in vigore il redditometro che appunto consentirà allo Stato di mettere ulteriormente a punto le proprie verifiche, le proprie idee su quello che spendiamo e il reddito che dichiariamo. E praticamente non c'è giornale che non apra su questo. La Repubblica, Fisco evade una famiglia su 5, Il Messaggero, ecco la stretta anti-evasione. Dopodiché ci sono opinioni divergenti sui quotidiani, per esempio Italia Oggi titola Redditest di manica larga, perché Italia Oggi sostiene di aver provato il nuovo software, però di aver scoperto che i risultati sono più generosi rispetto al redditometro di vecchia generazione. Quindi per Italia Oggi c'è un passo avanti, per così dire, a favore del contribuente, almeno dalla simulazione, dal Redditest. Poi bisognerà vedere se davvero è in linea il redditometro. E trovate anche qui su Italia Oggi il come e il perché. L'incoerenza tra quanto dichiarato e i consumi sarebbe comunque meno di manica stretta rispetto ai vecchi criteri. Dopodiché ci sono invece opinioni opposte. Se prendete Libero, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, anche qui apertura del giornale, titolo: i buchi del redditometro, che viene segnalato ai lettori con una linea in rosso che sottolinea il giudizio strumento pericoloso. E perché strumento pericoloso? Perché sul quotidiano vicino alla destra, diretto da Belpietro, la giustificazione è opposta a quella di Italia Oggi. Si dice: abbiamo provato un nuovo test dell'Agenzia delle Entrate, è del tutto inaffidabile e non serve a un accidente contro i grandi evasori, però fa del terrorismo, cioè l'ultima cosa di cui c'è bisogno. Se andiamo sul Sole 24 Ore del nostro gruppo, il giudizio sul redditometro, non sul redditest, quindi sull'accertamento in base alle spese fatte, lo firma in prima pagina Enrico De Mita. E il giudizio è già nel titolo, perché dice: una quasi novità, perché in effetti un redditometro già c'era nel nostro ordinamento, anche se diversamente tarato rispetto alle oltre 100 voci di spesa che comporranno il suo paniere, cioè quello in vigore dal gennaio dell'anno prossimo. ma soltanto di costume, dice Enrico De Mita. È una novità, ma e soprattutto di costume, perché scrive dal punto di vista concreto dell'ordinamento. Enrico De Mita è dell'idea che non cambi molto, perché la spesa rimane indizio di reddito da approvare da parte dell'amministrazione fino a prova contraria, in un rapporto che non vuole essere contenzioso ma di collaborazione. Tuttavia, e questo lo condivido, l'arco delle spese che viene indicato come indizio di reddito, in realtà del redditometro è ampliato di molto rispetto a prima, e quindi bisognerà poi vedere da questo punto di vista. Andiamo altri giudizi. Altri giudizi che troviamo sono Il Giornale. Scrive: parte il redditest ma non batterà l'evasione. Varato il sistema che compara entrate e spese, ora serve un nuovo patto fiscale con i contribuenti. Il Corriere della Sera fa un titolo che non è un giudizio, dice: scatta l'ora del redditest. Anche qui si parla della famiglia su 5 che nella simulazione dichiara quasi zero. Il giudizio del Corriere della Sera, in prima pagina, richiamato che continua poi all'interno a pagina 42, lo firma Nicola Soldutti, e dice: il fisco semplice rimane un sogno. E più un giudizio complessivo, a mio avviso, sulla politica fiscale del governo, che ricordo a tutti non ha ancora effettuato la svolta di retrocedere un solo euro della lotta all'evasione ai contribuenti, né tantomeno taglia spese per fare meno imposte. Ma è un giudizio, quello di Nicola Soldutti del Corriere della Sera, molto più su questo che sulla simulazione, che è possibile a tutti dal sito dell'Agenzia delle Entrate, cioè il redditest, e sul redditometro. Come vedete, quindi, un ventaglio d'opinione ampio, ma di sicuro tutti riconoscono che la novità, il passo avanti c'è, tutti ne discutono, e quindi abbiamo deciso di chiedere di stare con noi una mezz'oretta direttamente a Tilio Befera, il direttore dell'Agenzia delle Entrate e presidente di Equitalia. Buongiorno e grazie a Tilio Befera. Buongiorno. Allora, posso chiedere innanzitutto, prima di entrare in una spiegazione a chi ancora non avesse avuto notizia ieri e ancora non ha scaricato sul sito, però intanto una prima sua reazione a come i media, in questo vasto ventaglio di giudizi diversi, hanno dato un'opinione sul redditest? Sì, dunque, è chiaro che questo è uno strumento fortemente innovativo. Al di là del fatto che la prosecuzione, il miglioramento di un vecchio strumento degli anni Ottanta, ma è innovativo secondo me perché per la prima volta il fisco mette a disposizione uno strumento per farsi un'autodiagnosi di natura fiscale, ovviamente. Quindi da questo punto di vista non c'è più il rapporto: io adesso ti controllo e tu mi devi spiegare che, perché c'hai redditi in nero, c'hai costi non giusti o cose di questo genere, ma ti do uno strumento che ti consente, prima ancora di fare la dichiarazione, di capire la tua situazione. Quindi questa è la prima considerazione. La seconda, è chiaro che è uno strumento innovativo anche dal punto di vista tecnico e metodologico, e quindi i giudizi sono i più disparati. L'importante è che i cittadini capiscano che non è uno strumento di repressione o di controllo, ma è di aiuto, e questo è lo scopo principale del redditest. Che poi ci siano dei margini di miglioramento, siamo sicurissimi che ci saranno, e li metteremo in funzione via via che ce ne accorgeremo, via via che sarà necessario. Arricchiremo le basi dati sempre di più, perché automaticamente vengono arricchite. Quindi è uno strumento che tende a migliorare continuamente, ed è precede il accertamento sintetico, il redditometro vero e proprio, che è quell'evoluzione del sistema degli anni Ottanta, che era un sistema comunque molto limitato, sia perché comunque pensato negli anni Ottanta, e quindi c'erano comunque informazioni sicuramente inferiori a quelle attuali, sia perché aveva un meccanismo automatico che qui non esiste assolutamente. Il meccanismo automatico era: se possiedi certi beni, ed erano soltanto beni allora che venivano considerati di lusso, automaticamente non puoi dichiarare meno di, e non c'era discussione, mentre qui non si va a ricercare i singoli beni o i beni espressione di ricchezza, ma si va a controllare le spese, tutte le spese, indipendentemente dal fatto che siano spese per l'alimentare o spese per l'autovettura o per la barca. Non c'è questa distinzione, si fa una somma di spese, in fondo il concetto è elementare, una somma di spese confrontato con un reddito. Se c'è coerenza tra le due cose, e la coerenza anche con un grosso margine, perché la norma ci dice che deve essere la coerenza viene accettata come tale se c'è una differenza non superiore al 20%, il che significa che non c'è assolutamente bisogno, come ho sentito e letto, di tenere gli scontrini, di tenere una contabilità, perché comunque c'è un margine di errore elevato. Ma poi è chiaro che in una prima fase noi saremo molto cauti, saremo molto attenti e il margine sarà ancora maggiore. Per questo qualcuno, se non sbaglio Italia Oggi, ha scritto che è uno strumento abbastanza largo, ma vuole essere abbastanza largo. Non andiamo a cercare la piccola evasione o l'errore materiale, andiamo a cercare l'evasione media. Ovviamente parliamo di persone fisiche, quindi il grande evasore, anche qui ho sentito e letto qualcosa, il grande evasore non è colpito da strumenti di questo genere, è l'evasione di massa che viene colpita da strumenti di questo genere. Il grande evasore, abbiamo altri strumenti, altri incroci di base dati, altre informazioni che ci consentono di agire e di cercare di recuperare. Allora, tra le osservazioni che si trovano oggi da parte di chi ha provato il test, ripeto, lo trovate sul portale dell'Agenzia delle Entrate, e la garanzia, ce la può ripetere, è la totale anonimità, cioè se voi fate la simulazione non resta niente all'Agenzia dei Numeri. Assolutamente, anche perché comunque non vengono messi nomi, cognomi, codici fiscali, eccetera. Non c'è assolutamente nessuna possibilità da parte dell'agenzia, né nessun interesse da parte dell'agenzia a farlo. Ok, però da chi l'ha provato, per esempio sulla 24 ore di oggi, il giudizio che viene dato dopo queste simulazioni fatte ieri, lo trovate a pagina 2 sulla 24 ore, titolo: il Ready Test penalizza le famiglie più modeste. Perché la tesi dei due colleghi Salvina Morino e Torino Morina è che sotto i 30.000 euro di reddito l'anno c'è un rischio molto elevato di non congruità. Perché? Per l'elevata incidenza delle spese fisse. In altre parole, il giudizio di Italia Oggi, del giornale della concorrenza, quello secondo il quale il test sarebbe invece di manica più larga, riguarda i redditi soprattutto quelli medio-alti, mentre per i redditi medio-bassi e bassi il rischio di scorosco è maggiore. Non è che per caso questo può valere, a parte il fatto se a sua opinione valga già per il Ready Test, ma varrà anche per il roddetometro, cioè sarà un ulteriore strumento in cui chi ha molte spese fisse ha più possibilità per andare in rosso e per attirarsi in maniera sintetica gli accertamenti anche col roddetometro? Ma guardi, io credo che per valutare il Ready Test occorrerà fare più di una prova fatta di corsa al volo. Allora, il Ready Test ha dei coefficienti che trasformano le spese che vengono indicate nel software, le trasforma e le modifica per tener conto delle spese che non sono indicate. Per esempio, se io indico le spese di istruzione, le spese per la ristrutturazione di casa e così via, poi viene fatta attraverso una metodologia un calcolo delle spese per abbigliamento, per alimentari, eccetera, che ovviamente non sono indicate nel software. E questo coefficiente di conversione sono legati a dei cluster che abbiamo creato in base alla tipologia delle famiglie, in base all'area territoriale in cui vivono e in base al reddito che mediamente è indicato per quel cluster. Quindi non c'è questo rischio, perché chi ha un reddito medio-alto ha un coefficiente di conversione che è diverso da quello del reddito medio-basso, chi abita al nord ha un coefficiente di conversione diverso rispetto a chi abita nelle isole e così via. Quindi questo rischio non lo vedo. Nel caso poi dell'accertamento sintetico non usiamo un coefficiente di conversione, ma usiamo i dati Istat dei consumi delle famiglie per aggiungere quelle spese che non sono state identificate o determinate analiticamente. Le posso dire che abbiamo fatto due criteri diversi, due metodologie diverse, una per Ready Test e una per l'accertamento sintetico, anche allo scopo di verificare l'esattezza del risultato. Andando su due strade diverse, vogliamo vedere se arriviamo allo stesso traguardo. Ebbene, i risultati sono sostanzialmente identici e sono identici in modo puntuale, cioè famiglia per famiglia, persona per persona, il che significa che sostanzialmente il Ready Test tiene. C'è da fare un'altra considerazione: in sede di accertamento sintetico l'Agenzia delle Entrate è obbligata a fare un pre-contraddittorio con il contribuente, cioè prima ancora di iniziare un'attività di accertamento, se ha uno scostamento significativo fra redditi e spese, deve chiamare il contribuente e discutere con lui di questo spostamento, tenendo conto che lo scostamento può essere dato anche da redditi esenti, da redditi tassati alla fonte, da aiuti che la famiglia per esempio dà ai propri componenti, da vincite su giochi, e da eredità ricevute, da mille motivi diversi che non vengono rilevati in sede ovviamente di accertamento sintetico. Quindi c'è questa prima garanzia, ma ce n'è un'altra, perché poi se non è convincente il primo incontro si procede all'attività di accertamento e c'è l'obbligo di un secondo incontro. Su questo noi stiamo convocando anche i nostri direttori perché questo contraddittorio avvenga in modo civile, corretto e trasparente. Io me lo auguro perché lei sa che su questo, nel rapporto con il cittadino contribuente, c'è una ferita aperta, perché quando si perde reddito e si perdono consumi come mai nella seconda guerra mondiale, perché siamo per i redditi delle famiglie a -3,2%, -3,3%, meno consumi -3,6%, -3,7%, l'impressione di ulteriore giro di vita da parte di un sistema che ha i suoi difetti fondamentali nel rapporto, non capace di discriminare tra evasori totali, incalliti e chi invece non ha soldi per pagare, magari lo dichiara, è uno dei punti di fondo che più constatiamo tutti i giorni. Racconto sempre ai nostri ascoltatori, in questo periodo, avendo ripreso in mano un testo di evoluzione comparata di ordinamenti fiscali, che ai tempi della monarchia assoluta, tra Luigi XIV e Luigi XVI in Francia, per chi pagava le imposte dirette, all'epoca erano solo i proprietari, cioè la borghesia e la nobiltà di toga, la nobiltà di spada aveva diretto appello al re, però in quel caso i fermier, che poi sarebbero gli equivalenti dell'epoca, gli appaltatori privati delle tasse, come dire, i suoi colleghi dell'epoca, anche se erano privati, talvolta chiedevano troppo ai contribuenti. I contribuenti, ai parlamenti, che erano le sedi dell'impugnativa tributaria, avevano facoltà di fare appello. Primo si trovavano un giudice terzo, perché il giudice del re non c'entrava niente col fermier, mentre nel nostro caso non è così, perché il giudice appartiene alla sua stessa amministrazione. E poi secondo, il giudice del re, in caso di non infrequenti richieste eccessive del fermier privato, che rappresentava il fisco pubblico, aveva la facoltà di condannarlo fino a 3 volte tanto l'eccesso di petitum, cosa che se capitasse con l'Agenzia delle Entrate non so come ci metteremo. Questo per dire, nel tempo i cittadini italiani sono convinti che le cose siano andate a loro totale disdoro. Ma ci spiega un'ulteriore cosa dopo la pubblicità, però ripartiamo dopo la pubblicità sempre con Attilio Befera, perché in effetti questa simulazione un po' l'effetto di suscitare terrore ce l'ha, però, perché l'idea che 1 su 5 sono a rischio evasione, se ci spiega come avete fatto la simulazione, perché sennò è un po' l'idea, state attenti a casa perché vi stiamo venendo a prendere, un po' questo insomma forse il messaggio. Stiamo con Attilio Befera e stiamo parlando con lui del Redditest che trovate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e con il quale potete iniziare a impratichirvi con una simulazione tra vostre spese e congruità fiscale, perché da gennaio entra in vigore il nuovo redditometro con più di 100 voci di spesa di tutto ciò che sostenete come spesa rispetto a un accertamento sintetico che l'Agenzia delle Entrate farà andando a verificare sulla base delle vostre spese se davvero siete dei fedeli ottemperanti all'obbligo fiscale. Il più naturalmente dei messaggi, devo dirlo a Attilio Befera, dei nostri ascoltatori, considerano questa iniziativa un ulteriore incrudimento nel momento del quale il reddito, il lavoro, l'occupazione piange. Ma eravamo al punto sul quale i giornali fanno i titoli, cioè questo di un messaggio di una famiglia su 5 che non sarebbe coerente. Come l'avete fatto questo campione, se possiamo chiedere? Sì, non abbiamo fatto un campione, abbiamo preso 22 milioni, oltre 22 milioni di famiglie, quindi un 45 milioni di soggetti, li abbiamo suddivise in 11 tipologie, a seconda di coppia singola, figli, 1, 2, 3 e così via, e in 5 aree territoriali, quindi non è un campione ma è il mondo produttivo italiano, 22 milioni e mezzo di famiglie che si presentano comunque normalmente al fisco. Questa è la nostra base. Poi abbiamo preso tutte le spese che abbiamo nelle nostre banche dati, che ormai sono notevolissime, sono importantissime. Alcune di queste spese le abbiamo considerate direttamente, alcune ne abbiamo considerato sulla base di dati Istat o di comunque operatori economici importanti, abbiamo considerato la spesa di manutenzione, l'autovettura, non abbiamo preso la spesa di acquisto, ma quanto mediamente costa un'autovettura di una certa cilindrata e così via. E questo vale per tutta una serie di spese. E poi abbiamo, attraverso un coefficiente, calcolato le spese minute, appunto, minute o comunque non rilevabili singolarmente, come gli alimenti, l'abbigliamento e così via. Nelle spese che abbiamo nelle basi dati c'è anche le spese elettriche, la telefonia e così via. Da qui abbiamo determinato quindi dei parametri e abbiamo fatto dei confronti con i redditi dichiarati e abbiamo scoperto che ci sono soggetti che spendono ma dichiarano molto poco, molto meno di quello che in effetti dovrebbero teoricamente dichiarare. Per quanto riguarda il fatto dello strumento, un ulteriore strumento che in un momento di crisi interviene a creare ulteriori problemi economici, qui ci mettiamo un attimo d'accordo. Se in Italia c'è un'evasione di massa, 120-130 miliardi l'anno, che negli anni ha creato enormi problemi a questo paese, non ultimo il debito pubblico, ma non solo quello, la competitività, non ha fatto crescere le imprese sane perché è stata falsata la concorrenza e così via. Allora, se abbiamo questo problema, siamo in guerra anche su questo tema, come dice il Presidente Monti. Io poi da cittadino privato, ma solo da cittadino privato, posso anche condividere l'idea che quanto viene recuperato dall'evasione deve essere comunque redistribuito. Non lo posso dire come direttore. No, ma questo lo però ripeto sempre anch'io che non tocca. La battaglia vada fatta, a mio avviso, va fatta. Vanno usati tutti gli strumenti che oggi la tecnologia e le metodologie statistiche ci mettono a disposizione. Questo è uno degli strumenti. Non vuole essere questo, io insisto su questo, non vuole essere uno strumento che terrorizza, è uno strumento che forse va usato da chi finora ha evaso, parzialmente o totalmente. È uno strumento per chi evade, non per chi paga regolarmente le imposte. Senta, ma c'è un'obiezione tra tutte quelle che sono moltissime, quelle tecniche che ho visto, che effettivamente ha fatto riflettere molto anche me, perché c'è chi ha obiettato ieri andandolo a scaricare dal sito, che è un po' singolare, come per esempio per noi che siamo soggetti agli studi di settore, e gli studi di settore diciamo riguardano più o meno 3 milioni e mezzo di soggetti, e noi siamo alla fine, negli anni, nel corpo a corpo, per così dire, con l'amministrazione fiscale, perché di questo si è trattato, siamo suddivisi in quasi 3.000 cluster, mentre qua con 41 milioni rotti di contribuenti le individuali ci sono solo poco più di una cinquantina, 55, 56, non mi ricordo bene il numero, ma poco più di 50 gruppi omogenei, quindi le ipersemplificazioni rischiano di essere un pochino… Parliamo di due cose completamente diverse e anche questo, confrontare due cose completamente diverse, confrontare le mele con le pere, secondo me non aiuta. Allora, è chiaro che lo studio di settore che riguarda l'attività economica, e già i settori di attività economica sono enormi rispetto, tanti più rispetto alle tipologie di famiglie, ma poi riguarda soggetti che operano appunto in modo economico, commerciale o quant'altro, in situazioni completamente diverse. Una cosa è un negozio che è al centro di Roma, un negozio, lo stesso negozio in una periferia di Roma. Qui invece parliamo di tipologie di famiglie sostanzialmente e aree territoriali abbastanza omogenee. Quindi son proprio due cose completamente diverse. Non c'è l'attività economica dietro il redditometro, ma c'è la spesa. E la spesa sostanzialmente è diversificata sul territorio, è chiaro che è anche diversificata se io sono single o se sono una coppia con tre figli, ma oltre questo non si va, mentre nell'attività degli studi di settore si va a vedere in dettaglio l'attività economica. Allora, abbiamo con noi adesso il professor Raffaello Lupi, che ci accompagna sempre in materia fiscale, quando più delle volte tocchiamo questo argomento, insegna diritto tributario, giurisprudenza, Università Roma Tor Vergata. Nel suo blog, che vi invito sempre a consultare, giustiziafiscale.com, il professor Lupi è uno di quelli che dice che, insomma, Il reddito si tassa dove si produce, ma per correre a ritroso alla ricerca del gettito, il percorso partendo dai consumi individuali, cercando di ricostruirli, è un po' come cercare l'ago nel pagliaio. Mi sbaglio, professor Lupi? Buongiorno. Sì, è un processo inverso, è come farsi un'operazione all'intestino partendo dalla bocca, cioè i redditi si tassano facilmente, si beccano bene dove vengono prodotti, piuttosto che inseguire dove fa le vacanze l'artigiano, dove gioca a tennis, se manda a scuola i figli. È un complemento importante ed è in buona parte dovuto alle recriminazioni degli onesti, disonesti, gli evasori, gli untori, le streghe, queste drammatizzazioni che stanno bloccando la società italiana. Allora si esce con la spesa, davanti alla spesa siamo tutti uguali, un ottimo palliativo sociale perché non distingue fra categorie, però sul piano della determinazione della ricchezza non riesce ad avere quella sistematicità necessaria a provocare l'adempimento spontaneo, cioè bisogna fare un numero di controlli talmente elevato e talmente dispersivo, come diceva giustamente Attilio, in termini di tempo: devi chiamare due volte, devi ricostruire la storia di una famiglia, capire perché qualcuno spende, chi gli dà i soldi, se c'è i redditi fondiari tassati a forfè, di chi sono i BTT, che faceva il nonno che ha preso la liquidazione 15 anni fa, che richiede tanto di quel tempo da parte degli uffici che non può essere gestito in modo adeguatamente capillare. Per questo dico, in termini politico, mediatici, comunicazionali, va benissimo, perché è uno strumento di coesione sociale in un certo modo. Sul piano di determinare la ricchezza dove le aziende non arrivano, secondo me non funziona. Beh, cioè, sente, un'integrazione, no, può essere un'integrazione, prima vado. No, ma subito sul nucleo di questa osservazione, che è un'osservazione di fondo, perché dice Lupi, insomma, concentriamo, visto che la guerra agli evasori bisogna farla, però facciamola dove si produce, dove avvengono i consumi, oppure in realtà dove il reddito si produce, dice Lupi, perché altrimenti, lo capisco, ma è uno strumento politico, serve a buttare un po' di tanta polvere negli occhi e serve soprattutto a fare un mucchio di lavoro aggiuntivo a voi delle entrate. Ma in realtà serve più a questo che alla sostanza. Lei che dice, Beffer? Allora, io sempre il massimo rispetto per le opinioni di Raffaello Lupi, che è uno degli studiosi più importanti sulla materia. Però sono 50 anni che si continua a dire, da quando è stata fatta la riforma, che bisogna colpire il reddito là dove si produce, e non ci si riesce, perché quando si produce il reddito in modo occulto, in modo nero, cosiddetto nero, è difficilissimo per l'amministrazione riuscire a capire, perché comunque devi poi dimostrare, non basta dire adesso controllo gli scontrini fiscali, perché gli scontrini fiscali andrebbero controllati 365 giorni l'anno, non un giorno. Controllarli per un giorno non ha nessun giudice ci darebbe ragione su un accertamento basato sul controllo di una giornata di lavoro di un'azienda. Allora, per quanto riguarda le persone fisiche, e soltanto le persone fisiche, abbiamo invertito, abbiamo detto non andiamo più a cercare il ricavo occultato o il costo gonfiato, ma andiamo a cercare la coerenza fra quanto spendono e quanto dichiarano, perché se spendono molto, ma molto più di quanto dichiarano, va bene l'eredità, la nonna, il botto, eccetera, però forse c'è anche del nero dietro. Per far capire questo noi, e per capirlo anche noi, abbiamo mandato sia nel 2010 che relativamente ai redditi 2010 che 2009, abbiamo mandato 300.000 letterine, anzi per l'esattezza 299.000, a dei signori che avevano un reddito enormemente sproporzionato rispetto a quanto avevano speso effettivamente, quindi senza nessuna metodologia, coefficienti e così, proprio le spese vive fatte. Ebbene, dai primi numeri risulta che abbiamo incassato da questi, da una parte dei 300.000, perché una parte comunque aveva perfettamente ragione di spendere di più, abbiamo incassato spontaneamente 200 milioni di imposte in più. Questo è alla base del redditometro. Queste sono le prove che abbiamo fatto sul campo del redditometro. È vero quello che dice Raffaello Lupi, però è altrettanto vero che serve anche fare operazioni di questo genere, che non sono operazioni politiche, sono operazioni tecniche. Noi andiamo a cercare di scovare l'evasione attraverso la spesa. È un sistema. È vero che forse entro dalla bocca per arrivare all'intestino, però l'importante è che arrivi all'intestino e tolga il tumore. Allora, su questa cosa del tumore, l'effetto naturalmente, però ammettiamolo, questo non spetta naturalmente all'attuatore delle politiche fiscali, cioè a Tilio Befera, però l'effetto secondo me sarà di un ulteriore freno ai consumi italiani, in un momento nel quale siamo al crollo record dei consumi. E bisogna considerare gli effetti che si determinano nella pancia dell'economia italiana. Io adesso, noi tra poco andiamo all'informazione stradale, avevamo contrattato con Attilio Befera mezz'ora e siamo già andati oltre. Io più che pregarlo, se può fermarsi fino alla fine, bene, altrimenti lo saluto anche qua. Vorrei iniziare a sentire anche qualche ascoltatore, come per esempio Piero, che ci chiama dalla provincia di Piacenza. Prego Piero. Sì, buongiorno a tutti quanti, a lei, a chi conduce, chi interviene, agli ascoltatori. Sì. Il tumore bisogna capire, e non prima di tutto di toglierlo, di capire perché c'è il tumore. Se non si capisce perché c'è il tumore, poi il tumore ritorna e si va a colpire quello che alla fine è il colpo finale, sono sui consumi, e non si va a colpire veramente la cosiddetta casta. Dica al signor Befera che lui percepisce il doppio di quanto percepisce il capo dello Stato, cosa inammissibile in ogni paese democratico. Il capo dello Stato prende la metà dei burocrati, dei boiardi di Stato, cose che non stanno in cielo né in terra, e lo sperpero della politica, e i ladri che si annidano dappertutto, e le inefficienze dello Stato, e la burocrazia. Ma l'Italia verrà messa ancora di più in ginocchio, non avrà futuro, tutti sposteranno all'estero l'economia, e chi avrà la possibilità porterà i soldi all'estero e non li investirà qua. Tutto questo verrà a danno dell'Italia e dell'economia italiana, crollerà ancora di più l'economia e il lavoro. Va bene Piero, Befera c'è ancora? Sì sì. Ha sentito anche, c'è un osservazione. Non guadagna assolutamente, ecco, il doppio del Presidente della Repubblica, queste sono invenzioni che... D'altra parte credo che il lavoro che stiamo facendo è per dare una mano a questo paese, e continuare a dire che qualsiasi cosa si fa per combattere l'evasione danneggia i consumi, tra l'altro sono consumi in nero, quindi fanno parte di quella parte, perché chi incassa in nero non, probabilmente sta pure attento a consumare, quindi c'è tutto un problema molto molto ampio che va affrontato. Ma al di là di questo, continuare a dire che qualsiasi tentativo che si fa per combattere l'evasione è destinato a danneggiare il paese significa difendere gli evasori, cioè qui c'è un errore fondamentale, insomma, sti evasori ci stanno o non ci stanno, sti 120 miliardi di evasione ci sono o non ci sono, un debito pubblico è 2.000 miliardi, è stato causato anche dall'evasione degli ultimi 20-30 anni a questi livelli o no? Allora, se non si vuole fare questa azione di recupero dell'evasione, basta dirlo, io non ho nessun problema, me ne vado in pensione. No, certo. Io e i miei colleghi, se non si vuole fare, perché se no si rovinano i consumi, se no l'Italia, che bisogna combattere la casta, è che la casta va combattuta. Ecco, però non è attinente. Attenzione, uno dei danni che ho io nella lotta all'evasione è sicuramente lo spreco di denaro che viene recuperato. Cioè, il fatto che ci siano delle situazioni come quelle di Batman o di quant'altro, dei SUV, eccetera, danneggiano il mio lavoro. Ecco, e danneggiano la questo, voglia di pagare le ecco, imposte. Questo io lo considero giusto dirlo, perché altrimenti finché noi non le retrocediamo al contribuente, e il contribuente vede che vanno spesi in quel modo, perché Batman davvero guadagnava legittimamente, al netto di quello su cui la procura lo sta indagando, 50% più di Barack Obama, perché si portava a casa l'equivalente di 600 rotti mila dollari l'anno, quando Barack Obama ne guadagna 411 mila. Perché? Ma questo è perché legittimamente funziona così in Italia. Naturalmente ai cittadini arriva come uno schiaffo, anche se, ripeto, non è una materia attinente, però io apprezzo Befera che ci dice tutte queste cose, mi aiutano poco, perché ovviamente voi poi avete ragione a casa a dire ma negli alti vertici della politica e pubblici sti soldi quanto vanno e quanto vengono rispetto a quelli che ci si chiede in più. Ecco, e Jim Morrison commenta la politica tributaria italiana, per così dire, con questo disdegno di oggi. Attilio Befera ci ha salutato, e con noi ancora Raffaello Lupi, con il quale concludiamo, ma sentiamo ancora la telefonata rapida di Carla da Milano. Prego Carla. Sì, buongiorno. Io sono una professionista e porto il mio, la mia esperienza, la mia doppia esperienza professionale. Da una parte mi continuo ad occuparmi di accertamenti sintetici derivanti quindi da redditometro e diciamo nel 70% dei casi gli accertamenti sintetici denotano veramente superficialità e quasi sempre l'Agenzia delle Entrate perde in provinciale, quindi in primo grado. Ieri, preso chiaramente dalla mia curiosità, ho provato a fare il redditest e pur avendo un reddito rilevante e avendo un figlio che è in una scuola statale, eccetera, paradossalmente, non avendo nulla di eclatante, ma avendo sostenuto l'anno scorso 15.000 euro di spese mediche, il mio reddito è, tra parentesi, non coerente. Allora mi chiedo, io credo che qual è il messaggio che si vuole dare con i redditest? Io credo che sia di assoluto terrorismo fiscale. Il questionario è fuorviante, generico, quindi le informazioni troppo generiche rischiano veramente di scatenare una falsa guerra agli evasori e anche una dispersione delle risorse dell'Agenzia delle Entrate. Mi sarei aspettato invece un rapporto molto più leale e più concreto con l'Agenzia delle Entrate. Invece è così, si rischia veramente di scatenare una guerra fra, peraltro, persone che correttamente redigono la propria dichiarazione dei redditi perché pagano le tasse e soprattutto evidenziano nella certo. dichiarazione dei redditi le spese. Allora il giudizio di Carra è un giudizio di una professionista, un commercialista, ed è un giudizio articolato, documentato, e oltretutto c'è una bella percentuale di cause perse in primo grado dall'Agenzia delle Entrate su questi accertamenti sintetici familiari. Lupi, che ne dice? Come andrà questa cosa? È un nuovo capitolo non della guerra persa? Cioè, se Attilio Befera diceva prima che si fa fatica a controllare 3 milioni dove si produce la ricchezza, 3 milioni con di operatori economici, figuriamoci controllare con redditest 25 milioni di famiglie. Per questo dico, risolvi un problema grande aprendone uno più grande ancora. Va benissimo che deve essere utilizzato come integratore, cioè se io prendo il pasticcere, il mio solito esempio perché è un'attività ad alto valore aggiunto, non perché sono degli evasori, poi non è un marchio d'infamia, tutti siamo evasori quando capita, quindi dobbiamo rasserenare sotto sto profilo, che mi dichiara un reddito apparentemente verosimile della pasticceria, ma poi ha gli indici di spesa e vuol dire che non è del tutto fedele, quindi vanno usati insieme, ma poi soprattutto per i cosiddetti grandi evasori, quelli che nascondono parecchia ricchezza, non le questioni interpretative che quella è fuffa, ma i grandi evasori che nascondono parecchia ricchezza, li prendi abbastanza bene con il sintetico, perché i 50-100 mila euro, quelli te li dichiarano. Quindi se col sintetico scopri che hanno spese forti, allora dice guarda i 50-100 mila che mi ha dichiarato non sono sufficienti, quindi è utile ma è integrativo dell'accertamento dove si produce la ricchezza. Allora io devo fermare il professor Raffaello Lupi, io sposo questo suo giudizio finale, lancio un appello a tutti i dottori commercialisti, a voi che siete in ascolto, continuate a fare questo redditest e a segnalarci le cose perché ci torneremo con molte puntate sopra, quindi commercialisti e famiglie in ascolto, fate il test, dici che pensate, intanto appuntamento a domani, grazie a tutti.